140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24 con il mio account @MartaCagnola, ma anche con la nostra pagina Facebook 140 caratteri. Come ogni settimana, mano a mano, ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Parliamo di musica nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Tortona 37, Milano. Il rap per raccontare i giovani e l'Italia. Un nuovo CD di Gianmarco Marcello, cioè Mondo Marcio, cose dell'altro mondo. Le cose dell'altro mondo che volevo raccontare sono in realtà le cose di questo mondo, nel senso, cioè chiaramente l'eccezione è la caratteristica cose di un altro mondo, cioè che non ci vuoi credere, purtroppo sono diventate la norma. Quello che volevo indicare prima di tutto sono le ipocrisie che dobbiamo con le quali dobbiamo convivere tutti i giorni. Penso che la prima cosa per uscire da una crisi, qual è quella che stiamo vivendo, dovrebbe essere identificare il vero problema. E quello è appunto il vero problema, che è tutto in una grande nebbia, tutto in una grande foschia, cioè siamo in un paese dove le cose vanno male da così tanto tempo che è diventata la norma, no? Cioè, quindi va bene perché, cioè, sappiamo che così, lo diamo quasi per scontato che certe cose non funzionano. Quindi penso che il primo passo per cambiare veramente qualcosa sia partire da questa idea dove riconosciamo che il vero nemico è quello, sappiamo che dobbiamo fare quella cosa, quindi una presa di coscienza generale, penso che sia quello che manca all'Italia, una sveglia. Cose dell'altro mondo? Non crederci. Mondo Marcio. Verso uno, negli anni pensavo di aver perso uno stile di vita normale, fra la vita fa male, non c'è ospedale che tenga, tutto il resto è gossip come Ambra e Renga. Respiro questa musica nelle mie membra, brucio da 10 anni, come pensi che mi spenga? La voglio anch'io la laurea in Tanzania, benvenuti nel regno di Inequitalia. Soldi, soldi, guarda che smania, soubrette con le gambe all'aria, a Napoli ci si spara mentre a Milano si fa gara, chi ha più loft alzo tombe come Croft. Io ho modo di parlare prima di tutto i giovani, quindi quello che cerco di fare è di svegliare gli animi dei più giovani dandogli appunto una scossa, qualcosa di forte, qualcosa che appunto faccia ragionare i ragazzi di oggi. I giovani nello specifico, per quello che posso vedere, constatare, quando riesco a instaurare un minimo di confronto e di dialogo, hanno ancora di più questo problema, perché in realtà gli vengono date così tante possibilità, così tante scelte, così tante opportunità, che in realtà non hanno più niente da conquistare. Voglio dire, per fare un disco basta avere un computer, per fare un video basta avere una macchina fotografica. Finisce che la maggior parte dei dischi vengono ascoltati come sottofondo su una chat di Facebook, finisce che gli manca proprio la passione per il conquistare qualcosa. Quindi quello che cerco di fare con le canzoni è quello di smuoverli da questa bolla digitale, nella maggior parte dei casi, e cercare di fargli capire che il mondo sta dietro un display, il mondo sta dietro una chat, e che, come dire, la realtà è un'altra. Dimmi dove vuoi scappare, puoi chiedere al diavolo, dirlo a Dio, non sai quanto me ne vorrei andare, ma chi temo di più in realtà sono io. Se tu invece dovessi spiegare a qualcuno, non della tua generazione, ma della generazione dei tuoi genitori, che magari non si è mai avvicinato al rap, all'hip hop, come glielo spiegheresti? Probabilmente devono ancora capirla questa musica. Ma io penso che il grande punto di forza del genere è che prima di tutto ci siano le storie che il genere racconta. Nel senso, tutti quanti abbiamo le stesse paure, tutti quanti abbiamo dei sogni molto simili, tutti quanti in qualche modo vogliamo un po' lasciare il segno quando passiamo, no? E penso che questo non abbia età, quindi chiaramente è un genere giovane, è un genere che parla prima di tutto ai giovani, il pubblico è giovane da sempre, ma penso che se si leggono i testi con attenzione, prima di tutto si può trovare una grande similitudine tra appunto il rap e la poesia. Penso che sia una cosa che può legare appunto molto bene queste due cose, e anche la poesia non conosce appunto limiti di età. E poi, ripeto, si tratta di storie, si tratta di persone, si tratta di un rapper che racconta una storia che è la sua, ma che non è soltanto la sua, perché si hanno in comune così tante cose tra esseri umani che non c'è un vero e proprio limite di età. Tu parli spesso di politica e di economia, vuol dire che ti informi, che leggi, anche questo, insomma, speri di spingere il tuo pubblico anche a questo, a informarsi, a essere informati. Sì, secondo me quello che manca oggi, soprattutto dal punto di vista delle nuove generazioni, è la voglia di cambiare qualcosa. È come se ci fosse una grande sicurezza, che è la sicurezza di non avere sicurezza. E questo penso che sia il più grande nemico, perché appunto ti chiude in una bolla di insicurezza che è molto difficile da abbattere. Invece penso che farsi la propria opinione, ragionare con la propria testa, andare controcorrente e non seguire dei trend, che per esempio è l'argomento del quale parlo nel brano con J-Ax, Kilo, dove usiamo la metafora appunto del dimagrire o dell'avere la panzona, però piuttosto essere comunque onesti con se stessi. Penso che quella sia la chiave per comunque riuscire a fare qualcosa che ci renda veramente felici, perché è quello che volevamo davvero, piuttosto che seguire un trend o una moda o perché la maggior parte dei tuoi amici lo fanno, devi farlo anche tu. Secondo me bisogna rompere questo cerchio, no? Hey yo! La strada per il successo è sempre piena di ostacoli, fatica, sudore, e non esistono dei manuali che ti spieghino come farcela. Se vuoi qualcosa fortemente, è meglio che ti applichi passo dopo passo, grammo dopo grammo. Vedrai che anche tu capirai. Uno, prendere un chilo, perdere un chilo, riprendere un chilo, essere ancora in tiro. A me non frega del trend, tu come sei morto, fra con o senza il weekend. Perdo la mia religione proprio come i Rem, fra la mia generazione mangia colazione le tue boy band. E non sa tenere cash in mano, è come il calcio, l'anticipo, poi ce lo giochiamo. Zero pugnette, solo fatti, ti offendo davanti allo schermo. Già, ho una versione Limor touch screen. Digitale minimale, ti risale come vivi male, criminale al Quirinale, sì, ti pare. Non gioco mai a perdere la sedia, meglio una vita da mediano o una vita nella media. Tanti adesso si sono accorti del rap nel bene e nel male, è una contraddizione in termini oppure il rap può entrare nel talent show e nella televisione? Ma il rap negli anni ha dimostrato di poter fare praticamente tutto, dalle colonne sonore dei film ai cartoni animati a appunto dei reality e dei talent, come sembra avvicinarsi adesso. È un tipo di linguaggio così, così versatile che si può prestare a fare tutto. La mia opinione è che i rapper comunque sia non sono dei semplici interpreti, chiaramente parlo nel mio caso prima di tutti, non parlo a nome della scena, però il rapper per antonomasia secondo me racconta prima di tutto delle esperienze personali e cerco di raccontare una storia che non sia soltanto la mia, pur sempre però partendo dalla mia storia. Da quel punto di vista un talent in quel senso è un po' un controsenso, perché comunque sia non puoi mettere a paragone delle esperienze personali o dei punti di vista o delle opinioni, cioè sono un po' come dei giornalisti che scrivono in rima e a tempo, no? I rapper per me. Quindi, cioè, come fai a paragonare e fare un concorso tra delle opinioni? Quindi, non lo so, forse funziona meglio con degli interpreti il talent. Ultima domanda, hai detto sogni. Adesso, quali sono i tuoi sogni? Ma guarda, io sono molto contento di questo passaggio che ho avuto negli ultimi anni. Ho ritrovato, in un certo senso, l'ispirazione che avevo perso negli anni passati. Ho trovato gli argomenti che mi rappresentano molto meglio di cui parlare, ho trovato delle tematiche che mi rappresentano molto meglio. Di bello c'è che sono cresciuto con il mio pubblico. Nel 2006 rispetto a oggi, appunto, chi prima non guidava adesso guida, chi prima non votava adesso vota. Quindi siamo cresciuti insieme da quel punto di vista. Era soltanto onesto che parlassi di tematiche che comunque hanno a che fare con me e al tempo stesso con loro, quindi c'è stato questo tipo di evoluzione. Negli anni a venire sicuramente continuerò appunto con questa crescita naturale che c'è stata fino ad oggi. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. La musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli.